Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Dentro stasera è un disco molto interessante di Andrea Giannisi and the Band, possiamo dire così, Andrea? Sì. Tu vieni da Bologna, hai fatto un viaggio un po' difficile stasera perché c'era traffico, c'era brutto tempo, però sei arrivato. Siamo arrivati nonostante la pioggia, nonostante l'autostrada, quindi direi. Sì, sei arrivato, è una cosa molto positiva. Perché il disco è molto bello? Perché è molto bello musicalmente, è molto interessante. Tu provieni da una musica che viene da un po' di tempo fa, perché tu avevi un gruppo importante, faceva musica progressive, tra il prog e una musica un po' particolare e anche il world music. Come possiamo definire la musica del tuo primo progetto praticamente? Il mio primo progetto era Nil Project, direi che è molto difficile da definire come esatto, concetto musicale. Non è identificabile. Fondamentalmente si tentava di esplorare un po' varie situazioni, abbiamo cercato dalla psichedelia al folk, all'elettronica anche per certi versi, abbiamo collaborato poi con un'infinità di musicisti da tutto il mondo. E per cui sì, non è facile da classificare, è molto più chiaro diciamo il progetto che ho ora. Il progetto che tu hai adesso, presentiamo allora i partecipanti al progetto, i tuoi musicisti praticamente. Sì, beh, io ho fondato nel 2008 questo progetto che essenzialmente nasceva come una band dal vivo, quindi i musicisti con cui ho suonato e con cui abbiamo creato il progetto hanno contribuito attivamente agli arrangiamenti e alla costruzione del progetto. È nato già con la formazione che poi in realtà stiamo portando in giro anche ora, in più poi nel corso del tempo si sono aggiunti altre persone. La formazione originaria era con Francesco Giorgi, che tra l'altro è qui stasera al violino, e poi Francesco Ghirardi ai tabla, poi man mano abbiamo aggiunto altri musicisti, abbiamo aggiunto un flauto che era Antonello Bitella, poi abbiamo aggiunto un altro percussionista perché non ci bastava, certo, mi pare giusto, Domenico Candellori, poi più avanti si è aggiunto Ayub, soprattutto lui nella formazione live è venuto spesso, abbiamo suonato spesso insieme nell'ultimo anno, e poi vabbè sul disco c'è un violoncello che è Mario Paolo Balducci e una fisarmonica che è Alessandro Zaccheo. Ecco Andrea, adesso ci spieghi tutti le percussioni che suona Mohamed praticamente. Sì, lo spiega Andrea. Ayub che è qui al mio fianco, appunto, che è qua venuto stasera in formazione a trio a presentare il tutto, suona un'infinità di aggeggi, tra cui il dholak, che è uno strumento tipico pakistano. Che ha una certa sonorità, vero Andrea? Dà una certa sonorità. Eh sì, è un suono un po' simile a quello dei tabla, che è uno strumento anche quello tipicamente indiano e pakistano, che appunto suona anche nelle formazioni dal vivo oggi. Non ce l'ha qua perché lo sostituisce col dholak, perché è un pigro. Ah, per quello. Perché non voleva portare lo spazio, questo che è. Sì. Poi suona il daf, che è uno strumento, un tamburo a cornice. Fammi sentire un secondo. Questo. Ok, questo è il daf. Questo è un annuncio di quello che faremo più tardi. Poi c'è il bendir, che è un altro strumento, anche questo di tradizione medio orientale, sufi, no? Uno strumento tipicamente sufi, infatti Ayub è un sufi, quindi di religione sufi, musulmano. E quanti altri robe? Cosa hai nascosto? Cornici, hai nascosto qualcosa d'altro? Sì, no, ne abbiamo un sacco in generale, anche appunto. Sì, io suono chitarre, buzuki, poi Francesco, c'è violino, flauto, violino. Insomma, abbiamo cercato di dare più varietà possibile alla. Questa sera, però, chiaramente, essendo una radio, essendo una stanza ridotta, abbiamo cercato di ridurre non il suono, però, solo gli strumenti. Solo sì, la quantità di informazioni musicali che possiamo. Innanzitutto. Il disco come si chiama, Andrea? Il disco si chiama La Via della Seta. Tu hanno detto che tu sei un cantautore di confine. Quello è interessante. Di confine. Cosa vuol dire di confine? Di confine è fondamentalmente quello che dice la parola stessa, cioè una situazione che sta al confine tra situazioni diverse, fondamentalmente, che non ha paura di varcare delle frontiere e di contaminare i suoni e le forme anche musicali. Cioè io uso quella che è la forma tipica della canzone italiana, se vogliamo, quindi mi rifaccio a una tradizione ben solida cantautorale italiana, un po' progressiva in alcuni momenti, e la contamino il più possibile, vorrei continuare a contaminarla per il futuro con tutte quelle che sono suggestioni che vengono da altre culture o anche da altre, come dire, generi musicali, anche non solo altre culture nel senso di extraeuropee, certo, anche certo. quello che mi offre, diciamo, la possibilità musicale del momento. Allora, suggestioniamo un po' i nostri ascoltatori partendo con il primo pezzo che tu hai scelto nella scaletta di questo disco. Sì, sì, adesso sentiamo dal disco. Ti ricordi il titolo? Sì, sì, ovviamente. Ovviamente la traccia numero uno, scritto... non si sa mai, qualche volta si può partire. Potrei anche sbagliarmi io, in effetti. Chiaramente. Il titolo è Prima delle sabbie, è un brano che io considero un po' manifesto del disco. E, il nome potrebbe essere sibillino, e in realtà fa riferimento a un'antica leggenda dell'Egitto prima delle sabbie, che veniva citato già da Battiato in altri tempi, esatto, in altri modi. E, noi l'abbiamo riferita all'Italia, cioè perché il senso della leggenda era parlare di un paese che una volta era florido e veniva coperto dalle sabbie del deserto, quindi una sorta di deserto che io attualmente vedo come un deserto più che altro metaforico e morale, ovviamente. Certo. E niente, Prima delle sabbie è un brano che sia a livello concettuale sia a livello musicale esprime molto l'idea dell'album che abbiamo voluto fare. Ok. Italy's burning, l'Italia brucia di incenso e solitudine, di lunghe lotte e di idiozia, e si aspetta l'odore della pioggia che sale dalla terra antico nel vento. The summer wind, the summer wind, pesante di sabbie lontane. The summer wind, the summer wind, I still can hear the scream, I still can hear the scream, scream, I still can hear the scream. È di sabbia sottile, come parole scritte per caso e gettate sul fondo, sulla terra indurita a risuonare i passi dei viaggiatori, passi dei viaggiatori, polvere e sabbia a celare le mani, come fosse questo l'importante, nel vento. The summer wind, the summer wind, pesante di sabbie lontane. The summer summer wind, I still can hear the scream, I still can hear the scream, I still can hear the scream, I still can hear the scream. From the ground, the summer, we the summer, we pesante di sabbie lontane. The summer, we the summer, we I still can hear the scream. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, salutiamo anche Roberto Baldi che è arrivato a dare manforte a Michele. Buonasera Roberto. Buonasera. Ok, ho visto una cosa molto bella, che Ayub già stava provando le cose, già stava provando i pezzi che doveva fare più No, non è che li prova, è che proprio non riesce a stare fermo. Anche in macchina, lui se gli dà in mano una lattina la suona, è un po' così. Bene, e a proposito di recensioni, di cose che hanno scritto su di te, di questo disco molto bello, Musica e Dischi è una rivista famosa, una rivista importante, molto importante, ha scritto una cosa di questo genere: bagna la tradizione del cantautorato italiano con ripetute immersioni nel fluido del pop europeo. Bello, sì. Direi molto bello, Andrea. Sì, no, sono, guarda, devo dire che sta avendo un'ottima risposta dalla stampa specializzata, il disco, e insomma siamo molto contenti perché in pochi mesi sono già uscite un sacco di recensioni, direi molto positive, direi alcune molto positive, alcune addirittura entusiastiche, che ci hanno quasi imbarazzato. Francesco è d'accordo, Francesco. siamo soddisfatti, sì. E poi c'è una cosa che io ho una certa età, chiaramente, Michele lo sa. Il primo pezzo, ripetiamo il titolo del primo pezzo. Prima delle sabbie, al di là del riferimento a Battiato, aveva un riferimento a Claudio Rocchi, c'è poco da fare. Sì. Nell'insieme dell'impasto, nell'insieme del momento ritmico, aveva un riferimento al Rocchi di Viaggio e di Volo Magico numero uno, secondo me. Sì, io devo dire, in generale i riferimenti li sento... positivo, assolutamente, non negativo. No, li sento in generale a tutto il periodo anni 70, devo dire, io tributo molto onore ai miei maestri, come non tutti fanno, e devo dire che quello è stato un periodo in generale, quello in cui operava Claudio, quello in cui operava tanti altri della sua generazione, tra cui anche gli Attuali, certo, tra cui Battiato, quindi la musica etnica di Mauro Pagani, esatto, vorrei... diciamo gli Attuali sono stati i primi a fare questo disco, esatto, Walter Maioli, insomma, quindi quella, c'è stato tutto Cramps, un con l'etichetta storica, esatto, Cramps, gli Area, insomma, esattamente, c'è solo l'imbarazzo della scelta insomma per quegli anni, quindi chiaramente, pur non volendo fare un'operazione retro, no, chiaramente io mi sento di dire che sono stati un elemento importante della musica italiana, è un elemento importante della mia formazione musicale, anche se sono anagraficamente molto giovane, direi posteriore a quell'età. Molto giovane. Sono nato dopo, esatto, però avrei voluto nascere prima per poter... E per quello sei un cantautore di confine, qualcuno, esatto, ha citato Yuri Kamisaska, poche persone citano Yuri Kamisaska, ma dobbiamo ricordare che Yuri Kamisaska ha scritto Nomadi per Alice, certo, pezzo meraviglioso, sì, ha scritto un sacco di cose assieme a Battiato, era amico di Battiato l'ha scoperta, l'ha tirato fuori dalle nebbie, era un tipo particolare. Ma poi sono, sì, sono tutti anche umanamente persone, sì, molto, molto particolari. Ma tu l'hai conosciuto? Sì, ho conosciuto, no, Yuri Kamisaska diciamo non benissimo, l'ho conosciuto in alcune occasioni, ho conosciuto meglio Claudio Rocchi perché ci ho collaborato appunto con il progetto che citavi, certo, prima, Nil Project, lui ha lavorato con noi su due dischi, regalandoci delle collaborazioni, e quindi insomma lui abbiamo avuto modo di, e anche Nino Di Martino dei Giganti, certo, ha lavorato con noi, anche Marco Maioli, ricordiamo un famoso disco Progressi dei Giganti, esatto, Terra in Bocca ragazzi, un disco, sì, meraviglioso all'epoca, fantastico. E niente, quindi insomma sicuramente con loro abbiamo avuto molti scambi positivi, ecco. Come avete creato, cioè tu mi hai detto questi riferimenti, hai creato il progetto, un pezzo come questo musicalmente come l'hai inventato, un pezzo per chitarra e voce, e poi lentamente le cose sono sviluppate grazie alle percussioni, il violino eccetera. Sì, generalmente il pezzo è nato più o meno con la struttura che si sente, è nato con chitarra e voce molto semplicemente, come quasi tutte le canzoni dei cantautori e che scrivo io in generale. Poi chiaramente tutte le idee musicali si sono sviluppate assieme, per esempio tutto l'intermezzo strumentale in 7 ottavi che è presente l'abbiamo sviluppato insieme con i musicisti. Quindi non sanno che cos'è il 7 ottavi, io lo so, però E sette ottavi è un metro che si usa all'interno della musica. Normalmente il pop è tutto in quattro quarti, cioè un ciacco. Esattamente. E invece il sette ottavi è un metro un pochino più complesso, che si chiama tempi dispari, insomma, che vengono usati in altre culture musicali anche questo, insomma, quindi è un'ulteriore contaminazione. Vogliamo dire un'ulteriore contaminazione, perché questo disco è molto contaminato nel senso positivo, quindi l'Oriente, l'Occidente, il folk, il rock, anche il blues, perché no? Sì, il blues diciamo e forse di traverso, possiamo dirlo di traverso. Forse il blues è più nel prossimo lavoro, ci stiamo già pensando di collaborare con dei musicisti blues, con Fabrizio Bezzini, che probabilmente ci sta anche ascoltando, che è un nostro amico. Salutiamo. Musicista, chitarrista, blues, veramente bravo, nonché bengista, come si dice. Che blues può essere di traverso, cioè non ha sonorità blues questo disco, però se possiamo scavare dentro qualcosina viene. Sì, poi il blues è anche per certi versi anche uno stato d'animo, certo, più che una forma musicale, quindi in certi contesti può essere applicato anche su forme musicali che non gli appartengono. Scaviamo meglio, adesso suoniamo qualcosa dal vivo. Okay. Che cosa? A proposito di blues, di stato musicale, di stato mentale e musicale, direi che una canzone molto blues dal punto di vista del concetto è Precaria Primavera. Ah, certamente, molto blues. È diciamo una canzone molto attuale, tristemente attuale, che direi si spiega da sola nel testo. Io andrei a eseguirla direttamente. Benissimo. Precaria Primavera. Ci sommerge e riemerge la coscienza di una terra offesa a morte. E le idee sono abiti da sé, da cambiare in continuazione. La porta in autunno perché è primavera, la porta in autunno perché è primavera, la porta in autunno perché è primavera. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo sentito il primo pezzo, molto interessante, il primo pezzo live. E poi c'è una cosa che hai detto molto bella, e adesso io devo riferire chiaramente. Volevo che la tavolozza timbrica dei brani fosse la più aperta e colorata possibile, rifuggendo dagli standard soliti del pop. L'hai già detto, ma adesso possiamo ampliarlo questo discorso in un'intervista. Bella, volevo che la tavolozza dei colori. Abbiamo avuto tanti colori in questo momento, tanti colori diversi, dal colore di un certo tipo fatto da Mohamed, scusati, Ayub. Ayub non me lo ricordo, è come dargli del lei. Ayub, e poi c'era il violino, quasi il violino da danza di Francesco, e c'erano le tue colorazioni. La chitarra vagamente flamenca, vagamente zigana, molto vagamente. Vagamente flamenca. Queste colorazioni, la tavolozza dei colori. Sì, la tavolozza dei colori direi è importantissima, perché è un po', diciamo, quello che è la veste delle canzoni. Le canzoni nascono nude, come tutti noi, e poi vengono man mano vestite dai musicisti. Quello che noi abbiamo cercato di fare in generale è non limitarci solamente a colorare timbricamente i brani, ma anche proprio a integrare delle strutture, degli strumenti che possono essere portanti, strutturali. E per far questo prima abbiamo destrutturato il pop. Ah, ho capito, cioè, giusto. Togliendo... destrutturato il pop. Togliendo il basso e la batteria, che sono l'armatura fondamentale di qualunque canzone pop, poi ci siamo trovati, come dire, dispersi nel campo della musica, e abbiamo deciso di ricostruire su questo, basandoci su tutte le possibilità che avevamo a quel momento a disposizione, e quindi dando struttura, per esempio con le percussioni, ma anche col violino, col violoncello, con la chitarra, cercando di trasformare un strumento in elemento portante del brano. Visto che Francesco annuisce in continuazione, potrebbe dire qualcosa anche lui al Francesco microfono. Tra l'altro è un musicista d'eccezione, quindi su queste cose ha idee molto chiare. Francesco, dai, dici qualcosina davanti al microfono. No, io sono pienamente d'accordo con Andrea. No, come contraddirlo mai. Sotto il tavolo c'è una pistola puntata adesso. Per quello. No, a parte di tutto, sì, è proprio questo. Cioè, effettivamente le canzoni sono state vestite tutte insieme. Io sono d'accordo anche sul fatto che appunto ci siamo proprio trovati a lavorare. La sfida era questo, con un metodo anche che escludeva, per l'appunto, tante possibilità, tra cui quelle di usare. Ci siamo limitati, limitati per crescere. Posso chiamarla sperimentazione acustica in questo momento? Sì, è possibile? Sicuramente è una sperimentazione acustica, musicale, anche concettuale, perché comunque vuol dire anche rinunciare degli schemi da cui si parte per presupposto. Cioè, quasi tutti i gruppi, me compreso, quando iniziano a suonare per la prima volta, concepiscono le strutture musicali e in generale la musica come una cosa molto schematica, dove necessariamente ci devono essere dei tipi di strumenti, necessariamente delle strutture, delle forme. Partire azzerando il tutto e poi ricostruendo su questo tabula rasa è quello che abbiamo cercato di fare, insomma. Certo, tu hai parlato sempre in un'altra intervista che ami particolarmente Revolver dei Beatles. Revolver dei Beatles ha tante variazioni sul tema. Esatto, i Beatles, Revolver è un album rivoluzionario, soprattutto se si pensa all'anno in cui è stato fatto, che è assolutamente... E tra l'altro ci sono lì i primi esperimenti anche di contaminazione con l'Oriente, penso, insomma... E poi John Lennon era... George Harrison, molto amante di queste cose. Chiaro, e quindi poi c'è un pezzo fantastico come Tomorrow Never Knows, che farebbe invidia ai Massive Attack di oggi, insomma. Questo sono d'accordo con te. E nelle diverse tracce del tuo disco io ho scovato, secondo me, vediamo se sei d'accordo, sono d'accordo gli altri due musicisti che sono con te adesso, ho scovato qualcosa dei Moody Blues. Moody Blues li ho frequentati, devo dire, un po' poco. Cioè, però i Moody avevano questa tendenza, innanzitutto sono stati il primo gruppo a fare il concept album assoluto, quindi è una cosa molto positiva. E poi avevo questa tendenza a contaminare anche loro variazioni etniche, spesso e volentieri andavano avanti col sitar, giocavano con il sitar o gli strumenti assolutamente etnici. Sì, la World Music ante litteram, si parla del 60. Ma che poi World Music, però, infatti, è passato il concetto di World Music, che comunemente viene inteso oggi, è un concetto in realtà piuttosto riduttivo, perché si pensa la World Music per definizione è la musica di tutto il mondo, non necessariamente la musica delle culture extraeuropee, come magari viene definita oggi. Quindi è World Music musica anche la canzone italiana in un certo modo. Possiamo essere d'accordo. E chi vuole fare veramente un progetto di contaminazione non deve neanche chiudersi in una nicchia e dire ok, adesso usiamo solamente gli strumenti orientali o gli strumenti medio orientali o quello che è, per dare appunto il colore superficiale. Noi vogliamo andare in profondità e lavorare sulla musica come materia musicale, quindi al di là proprio di questi confini anche di, certo, di genere. Anche se qualcuno ha detto che la World Music è iniziata con Paul Simon. È stato lui a iniziare, poi Peter Gabin ha fatto un'etichetta, ma questo è un altro par di maniche. Però Paul Simon ha iniziato proprio a scovare, andare in Sudafrica a scovare la musica africana. Sì, cioè la World Music nel senso appunto europeista è iniziata sì con queste operazioni di riscoperta e di integrazione all'interno di quelle che sono poi le nostre appunto mentalità, certo, di musiche altre che in realtà già esistevano e già erano autosufficienti. Indubbiamente. Quello che forse è un passaggio che io ritengo interessante è anche andare noi verso gli altri, nel senso cercare appunto di rinunciare un po' alle certezze, come dicevo prima, e vedere, mettersi in gioco, cioè semplicemente. Poi è chiaro che non ha pretese antropologiche tutto questo discorso, spero assolutamente non venga preso come... Assolutamente. E comunque rimane pop. Rimane pop, una ricerca tua, di tuoi musicisti, verso vie, sì, che partono dal pop e poi si sviluppano. Perché questo, anche il nome stesso dell'album e del, certo, progetto, La Via della Seta, è nato perché... La Via della Seta fondamentalmente è una via di comunicazione, certo, quindi al di là insomma di tutte le implicazioni favolistiche, sì, e di Aladino e tutti gli altri, e Marco Polo, certo, Marco Polo, il milione, quello che mi interessava porre in luce con questo concetto era fondamentalmente il fatto che la Via della Seta è una via di interscambio tra le culture che è sempre esistita, e sempre esistita insomma da parecchi, da due millenni, tre millenni forse ormai anche di più, e in cui le culture si incontravano e si, come dire, si contaminavano, per, certo, l'appunto, stiamo usando troppo questa parola, entravano in contatto fra loro. Sì, ma una volta si contaminavano molto più facilmente, cioè dopo c'è stata una chiusura, poi sei ritornato a essere contaminato. Esatto, sì. Quindi è una cosa molto logica. È uno degli aspetti, certo, uno dei pochi aspetti positivi di certe modernità. Ok, adesso sentiamo un altro pezzo da disco, se siete d'accordo. Che traccia avete scelto, ti ricordi? Dimmi il numero della traccia. Michele Della Dice, la numero 6. Vediamo un po' se indovina. È difficile ricordarsi il numero delle tracce. Beh, adesso la sentiamo, poi vediamo. La diremo dopo. Okay. È una sorpresa. Perfetto. Tu guardavi la luna, guardavo la candela, la sera, la sera. La luce fioca copriva quel poco di vero che c'era. La sera, la sera. E poi improvviso un vento dal mare, il fuoco tacque il suo vuoto, riempì di senso il mondo. Noi nel suo splendore non fummo più soli, noi nel suo candore non fummo mai soli. Luce fioca copriva quel poco di vero che Noi nel suo splendore non fummo più soli. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Su questo flauto meraviglioso, leggermente progressive, se mi è consentito il termine. Direi è bello, sì. Dire leggermente progressive. Sì, sì, non è un'offesa, no, di sicuro. Direi che è un complimento. E bello, interessante questa costruzione, un po' movimentata. Parte da un tendenzialmente da un pezzo pop, secondo me. Sì. Nella prima strofa, l'inizio, poi chiaramente si sviluppa. Sì, sì, questo è un pezzo che era un po' una sorta di scommessa, perché fa finta di essere una canzone d'amore. E quasi tutti ci cascano di solito. Però in realtà tu ci sei cascato. Io subito. Sì, sì, subito. Lui l'ha dedicato subito alla sua ragazza. Perfetto. Ti vorrei ricordare che il titolo ancora non è stato detto. Esatto, esatto. Vediamo se lo sa il titolo. La luna e la candela. Bravo. Vedi? Perché l'ha dedicato alla sua ragazza appena uscito, quindi... La luna e la candela, questo pezzo, in realtà parla del rapporto tra realtà e illusione, niente meno. Ovvero tra quella che è la luce, se vogliamo, illusoria, effimera di una candela, che rischiara giusto, come dire, lo spazio intorno ad essa e rende paradossalmente più buio quello che è oltre l'alone della luce, e invece la luce più profonda e vera della luna, che a sua volta, tra l'altro, se vogliamo, un riflesso, e che comunque quando si decide, si sceglie di spegnere la candela, spesso di notte capita, non so se hai mai provato, sì, questa sensazione, qualche volta sì, e dopo un piccolo momento di spaesamento in realtà si comincia di nuovo a vedere, si vede più in profondità, si vede se c'è la luna piena, si vede molto in lontananza, e questo è una metafora che sta appunto a significare appunto questo rapporto tra una realtà che ci costruiamo artificiale e una verità che può essere più profonda e più semplice anche. E nell'insieme del pezzo della luna e la candela, perché mi ricordavi i Moody Blues? Perché su un album dei Moody c'è una candela in copertina. Ah, questo non lo sapevo. Non è un disegno, è un quadro d'autore, sai, Moody avevano dei quadri d'autore come copertina. E nell'insieme l'uso del flauto mi ricordava molto i Moody. Sì, sì, cioè l'uso del flauto è questo, io mi sono impegnato molto per togliere al nostro flautista, che è di matrice classica, tutto, ogni residuo di decenza classica, e continuavo a dirgli sporca il suono, e lui alla fine è diventato peggio di Ian Anderson, e quindi direi che ha fatto un ottimo lavoro, insomma, sul disco. A proposito di ottimo lavoro, il disco l'hai prodotto te. Sì. Microfoni spenti, mi dicevi, è una gran fatica in senso positivo. Sì, abbiamo lavorato con tutti i musicisti per un anno circa, chiaramente non tutti i giorni, certo, perché i tempi della produzione non ce li possiamo permettere come i Beatles, che stavano 9 mesi a Abbey Road. Avevano George Martin. Esatto, noi abbiamo lavorato tutto tra di noi e diciamo saltuariamente tra i concerti, gli impegni di ciascuno. Alla fine tutta la produzione è durata un anno ed è uscito ad aprile scorso, quindi insomma è un bel po' che... Come sei uscito? Come siete riusciti a contaminare le diverse sequenze di un disco così complesso? Beh, in questo ci aiuta chiaramente un po' la tecnologia, chiaramente ora con Pro Tools esatto, si lavora molto più facilmente, anche a distanza di tempo, anche senza dover essere tutti presenti nella stessa stanza. Devo dire, a volte noi avremmo voluto, ma su questo siamo più limitati tecnicamente noi del passato, noi nel senso noi contemporanei, avremmo voluto registrare più assieme, cioè in realtà tutto il disco è stato fatto traccia per traccia, insomma, quindi a registrazioni separate, multitracce, e noi in realtà essendo nati come progetto live, appunto mi sarebbe piaciuto dare una resa più live, però poi era più facile così, e devo dire che comunque abbiamo cercato di mantenere un feeling comunque acustico, non poppizzato troppo. Certo. Il progetto live, hai detto una cosa giusta, tu hai parlato della fine anni 60, inizio anni 70, e i live erano fondamentali a quell'epoca. Io ricordo il progetto live, continuo, era quello di Grateful Dead, che non certo, conta mai, live di 7 ore, 6 ore. E il discorso come si chiama? Ti chiamo Mohamed, scusa. Mohamed. Va bene. E che colore dà nel progetto live, con le sue percussioni? No, rispondi te, dai, Andrea, dal punto di vista percussivo, che colore dà la musica? Ma tanti colori, ovviamente, a seconda del momento. Lui sicuramente è una delle componenti più orientali che abbiamo, prima di tutto perché è pakistano, che dà un certo modo di direi che sicuramente è diciamo un percussionista che ha in sé la tradizione originale del suo paese, e quindi chiaramente suona tutti strumenti di questa tradizione, poi appunto quelli che citavamo prima, il dholak, certo, il dhandir, certo. Quindi è sicuramente l'aspetto, come dire, l'altro capo della Via della Seta. Noi siamo dal capo occidentale, lui è dal capo orientale e ci siamo incontrati nel mezzo. E quindi doveva essere così il discorso. Esatto. Il live è bello così perché dà proprio l'aspetto giusto del disco. Dai. Sì, sì. Poi comunque appunto dal vivo suono con lui, suono anche con un altro tablista che si chiama Francesco Gherardi, che anche lui, vedi... Lui non vuole parlare al microfono, però lo dice anche Ayub, dice che è bravo, e se lo dice Ayub è una garanzia, è un complimento, è una garanzia assoluta. Ok, un altro pezzo dal vivo, che cosa ragazzi adesso? Ok, Sogni, un pezzo con il Buzuki, quindi adesso alzo un attimo il volume del Buzuki. Sono andato a prendere il Buzuki, è uno strumento meraviglioso, anche visivamente è molto bello. Buzuki è uno strumento greco che noi abbiamo integrato con uno strumento mediterraneo. Questo brano è un brano un pochino più intimistico rispetto a quello precedente. Una luce taglia gli occhi. Perso negli specchi, vedo il sole che fa fuori di là e uccide il cielo coi suoi raggi. Tempo qui non puoi seguirmi, perché il tempo qui è un granello, un granello che viaggia con te e non può uccidere i tuoi sogni. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, mentre suonava questo pezzo era molto interessante, specialmente nella accelerazione ritmica, sì. Si scatenava. Mi sono venuti due grandi gruppi degli anni 60-70, uno erano gli Incredible String Band. Incredible String Band, certo. Band inglese di folk contaminato. Folk psichedelico. Esatto. E anche Curve d'Air per il violino. Curve d'Air. Francesco, cosa dici? Tu conosci Curve d'Air? Sonia e Cristina la conosci Curve d'Air. No, non la conosco. Però se vuoi dargli il numero di telefono magari sì, ormai di scrittura. In ogni caso i Incredible String Band sì, perché il folk e il rock si mischiava con la musica etnica. Sì. E la coreografia che ha dato Mohamed, la tua velocità col buzuki e il violino suo, dava questa sintesi secondo me. Tra l'altro il suono del buzuki ha diverse sfaccettature, nel senso che è uno strumento di tradizione mediterranea e greca, però viene usato molto anche nella musica irlandese. C'è proprio un buzuki irlandese, esatto, che è diverso nella forma da questo. Questo è una specie di liuto bombato, invece quello irlandese piatto sembra più una chitarra. Però la sonorità un po' viene usata anche nel folk britannico. Sì, sì, esattamente. Incredible aveva questa caratteristica di da un pezzo folk, diciamo normale, costruire un pezzo folk molto raro e fatto. Chiaro, sì, sì. Al di là del folk, c'era una propria costruzione. Sì, era un folk che andava verso altri orizzonti. Esatto, quasi jazz in alcuni momenti, sì, certo. Proprio una ricerca proprio interessante, un grande gruppo. Sono tutti i paragoni che mi fanno molto piacere. Sì, perché sentendo questi riferimenti, chiaramente sono riferimenti, chiaramente dopo la musica è totalmente chiaro, sì. Ma questi input sono positivi, certo. Scavano su certe cose che bisogna sapere, secondo me. Sì, sì, beh, perché è tutto un lavoro comunque di continuità della tradizione e sperimentazione allo stesso tempo, quello che poi in realtà la musica è sempre stata, cioè l'idea che possa venire, come dire, l'idea assolutamente originale, l'idea fuori da ogni contesto non esiste in realtà. Tutti i musicisti hanno sempre lavorato partendo da solide basi di musicisti che hanno conosciuto e che li hanno preceduti, quindi è più che come dire, accattivante l'idea di lavorare su delle basi così importanti come quelle degli che tu citavi, insomma. Certo. E poi tu hai fatto anche altre cose oltre alla musica, altri progetti paralleli alla musica. Sì, parecchi, devo dire, perché in questi anni un po', perché la musica chiaramente è io mi sono voluto concentrare su determinati progetti musicali, quindi non sono andato verso altri lidi musicali, che non sto neanche a dire. Però poi ho lavorato su progetti teatrali, di esatto, sperimentazione, ho cercato di lavorare anche su un discorso del sound design, per esempio, che a me interessa molto perché sound design ovviamente è la traduzione inglese di quello che potrebbero definire in Italia progetto sonoro, insomma, esatto, cioè la progettazione sonora che lavora quindi nell'interazione tra suoni e ambiente, nell'interazione tra i suoni stessi, quindi cercare di dare un significato anche ai suoni, quindi oltre che è un ambito più extra musicale, ma che io ritengo interessante, insomma, su cui lavorare, e questo chiaramente si applica poi a progetti più teatrali o audiovisivi, insomma. A proposito di questo, ti dico che qualche giorno fa, mi pare ieri o l'altro giorno, sì, giovedì scorso praticamente, sono venuti a suonare Marlene Kunz e hanno fatto un progetto di questo genere, cioè praticamente il film e lo hanno suonato come nel cinema muto. Avevano già fatto questo progetto qua loro anni sì, fa, e c'è un ritorno a queste cose, cosa ne pensi? Sì, perché è un'esperienza interessante che tra l'altro Francesco ha fatto con un altro progetto suo in cui collaborava. Parla un momento, Francesco. È timido. No, sì, effettivamente, no, non sapevo come interagire. Comunque sì, effettivamente anch'io ho lavorato poi con il cinema musicando dei corti di Charlie Chaplin. Ecco, vedi. Sì, sì. E una volta si faceva gli anni del muto, chiaramente. Sì, si faceva. Sì, sì, sì, e poi anche lì riattualizzare questa operazione è anche molto interessante, perché comunque fra noi e quelli che lo facevano prima degli anni 20 c'è una bella differenza di storia musicale, certo. Per cui anche i Pink Floyd inserire tanti elementi esatto. rendere attuale la cosa, no, l'interazione musica immagini ovviamente è sempre una cosa affascinante, poi l'interazione estemporanea, quindi anche legata all'improvvisazione, sì, chiaramente una componente che è molto moderna anche come concetto, anche se veniva applicata anche agli albori, sì, di questa tecnica in Italia. io ricordo, abbiamo citato i Marlene Kunz, abbiamo anche gli Yo-Yo Mundi. Yo-Yo Mundi, certo, insomma, ci sono molte persone anche meno famose, che si stai citando progetti direi già parecchio affermati. Comunque anche noi nella nostra realtà vediamo insomma una crescita di interesse, sì, verso questo una tipo via di... diversa, bisogna tentare altre vie in qualche volta. Sì, sì, perché comunque ti porta a fare cose che non faresti magari, cioè a seguire, per esempio, è una forma anche questa di destrutturazione, cioè tu devi seguire una linea eterodiretta, insomma, certo. Cioè che sono le immagini a guidare la tua improvvisazione musicale in questo senso. Ritornando ai live, hai detto che ci sono anche 9 persone nei live, cioè 8-9 persone che girano. Allora sì, non tutti insieme, no, tutti insieme, però nel palco, non siamo ancora riusciti. Nel palco solo siete 3 oppure di... Allora, la formazione live vera e propria di solito la formazione massima che siamo con cui abbiamo girato sono 5 persone. Quindi 2 percussionisti, flauto, violino e me, che sono appunto chitarra e buzzuki. Hubert era molto soddisfatto del secondo percussionista, quello con cui era molto contento poi in realtà appunto un po' per la diversità anche di situazioni in cui ormai ci si trova a suonare. Perché chiaramente dove suonate di solito? Dappertutto, perché può capitare che suoni in un teatro, come può capitare che suoni in un baretto di periferia. E quindi chiaramente in un palco piccolo in 5 non ci si sta neanche. Certo. E quindi magari per esempio a volte siamo andati anche in duo, io e Yub, oppure le formazioni a trio come quella che siamo oggi, in quartetto. C'è stato una volta che abbiamo fatto l'esagerazione di essere in 6 all'Arteria a Bologna, che era stata come dire una festa per noi. E tra l'altro appunto lì avevamo 3 percussionisti più, in realtà poi insomma i musicisti, che una volta abbiamo fatto una formazione inedita con una fisarmonica, Alessandro Zaccheo alla fisarmonica. Bene. Fisarmonica e violino. Bene. Poi boh, non l'hai portata stasera? No, perché non è un altro, è un altro ragazzo, quello che ha suonato sul disco. Okay, è un bravissimo... Pensavo che anche lui suonasse la fisarmonica. No. Non esageriamo. Lui suona il pianoforte, comunque, vedi, molto bene. Vedi che suona un altro strumento, mica solo violino. No, Alessandro Zaccheo è uno dei musicisti che ha registrato sull'album, un ottimo fisarmonicista e che ci regala delle collaborazioni sporadiche ogni tanto anche dal vivo. Facciamo così, dopo, verso la fine della trasmissione, gli telefoniamo. Citiamo tutti i musicisti che hanno suonato dal disco, praticamente. Sì, quelli. Allora, adesso facciamo una cosa di questo genere, molto semplicemente. Sentiamo un pezzo dal disco. Sì. So che traccia hai scelto, ti ricordi? Dunque, mi sembra di aver scelto la 10. Michele, senza che nessuno me l'abbia suggerita questa cosa, io direi che il brano è La Prima Onda, un brano molto, molto battiato style. Molto interessante. Osservavo particelle di sole rimbalzare sulla sabbia e mischiarsi in friabili castelli lungo il mare, frammenti di energia solare, frammenti di energia solare. Dissolversi alla prima onda, punti a dissolversi alla prima onda, alla prima onda, alla prima onda, tra trascinati lontano sotto una superficie profonda di calma, immateriale sospensione. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Strada del molo vecchio, steso come un braccio sull'acqua, e io sul suo palmo, seduto ammiravo l'addensarsi della materia. Addensarsi della materia. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Dietro l'orizzonte degli eventi e delle nuvole sopra il mare. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, riepiloghiamo il titolo. La prima onda. La prima onda, sì. Perché bisogna sapere i titoli. È giusto. Dei pezzi. Soprattutto dei propri pezzi. Esattamente. È abbastanza importante. Pezzi. Bello anche questo, musicalmente movimentato. C'è movimento, cioè sì, questo, date movimento questo, a questo pezzo. Questo brano si gioca fondamentalmente sull'alternanza, come giustamente noti, tra movimento e staticità. Sì. C'è una fase, direi quasi folle, di ritmi spezzati che non sapremo neanche contare, non saprei dire che tempo abbiamo Francesco usato. Francesco annuisce. Se annuisce perché dire, neanche lui lo sa contare. Si ricorda. E che è appunto l'inizio, il riff iniziale. Certo. E poi dopo una staticità che rende senso, anche il senso del testo, perché fondamentalmente il punto, il concetto di base è l'osservazione di quella immobilità in cui si cade d'estate, insomma, e quella specie di il paragone è proprio con un buco nero, cioè paragonare l'estate a un buco nero che risucchia ogni energia e ti lascia, come dire, basito di fronte al nulla. Poi dopo c'è un risveglio, quindi la dinamica è sempre questa, insomma, appunto la dinamica, cioè il passare da una staticità a una direi ritmica molto complessa. E poi c'è il flauto che dà tutto il flauto. Vedo che ti piace parecchio il flauto. Mi piace molto il flauto. Quello traverso ancora più. L'auto è sempre traverso, il nostro. Allora, 23 esatte, adesso ci abbiamo il giochetto, i dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi, ma è l'isola di Rock Wave. L'isola dei non famosi. È l'isola dei non famosi, ma può essere anche dei famosi, dipende. Allora, con chi cominciamo la ruota? Alla Elvis Costello, chi tocca per primo? Mi candido io, sì, così sì, gli ciulo i suoi, perché visto che non si può, mai detto che non si può usare gli stessi. Mi pare giusto che sia così. Così lui si inventa qualcos'altro nel frattempo. Vai Andrea, allora. Allora, io... in realtà dico cose molto mainstream come album. Sì, ottimo. Perché Il primo in assoluto, che penso che sia anche uno dei riferimenti principali del mio lavoro attuale, è Anime Salve di Fabrizio De André. Ecco, come mai hai scelto l'ultimo disco in assoluto di Fabrizio De André? Perché penso che sia un capolavoro e penso sia il modo migliore con cui poteva andarsene. Cioè, chiudere la carriera di un cantautore così importante, che ha fatto tantissimi lavori bellissimi, con un'opera del genere, penso che non capiti tutti i giorni, anche perché noi vediamo spesso cantautori della sua età, diciamo della sua generazione, che si dilungano in certe cose che sinceramente potrebbero anche fare a meno di fare. E lui invece, un po' per, se vogliamo, per una sventura, ha chiuso la sua carriera in questa maniera, e devo dire con un album eccellente, ma comunque la direzione era quella già da almeno 15 anni, quindi... E cosa ne pensi del coproduttore dell'album, Fossati, che ha detto stop con l'ultimo disco che è uscito da qualche Fossati giorno? È uno di quelli che secondo me ha fatto bene a dire stop adesso, sì, perché stava cominciando a non piacermi più. Lui mi è sempre piaciuto molto, è chiaramente un musicista eccezionale, anche la collaborazione. 23 album ha fatto, eh? Esatto, mica uno. Quindi per carità, mi guardo bene da dare giudizi, però comunque penso che a un certo punto sia importante fermarsi, assolutamente. Quando probabilmente non si ha più niente da dire, può darsi che sia questo. O forse era stanco, forse ha deciso no, voglio rimanere ricordato nel senso positivo. Sì, che poi un musicista in realtà non si ferma mai. Sì, diciamo sempre. Che puoi fermare quello che è il ciclo del dover fare qualche cosa. Fare il disco, esatto. Poi un musicista continuerà a suonare e lui sicuramente avrà uno studio di registrazione in casa. Ma io penso che continui a fare anche i suoi dischi senza venderli magari. Sì, può darsi, per il solo gusto di farli, il sogno. Sì, può darsi, ma penso che continui anche a scrivere pezzi per altri. Sì, probabilmente non continuerà più, smetterà di suonare dal vivo, di far dischi, forse quello, ma non si sa. Beh, vedremo, poi vedremo. Tanti lo annunciano, è anche un po' diventata una moda adesso dopo i Rem, no? Esatto. Hanno appena annunciato loro quello è male, perché se ne sono andati i Rem musicalmente parlando, perché evidentemente anche loro sentivano il momento, ma dicono, i ben informati dicono che non sono stati tutti i Rem, è stato Michael Stipe che aveva in mente la moda. Quindi qualche altro interesse. Voleva fare le magliette? Ma non so se voleva fare le magliette. Aveva qualche altro interesse, cioè musicale un po' meno, tanti altri interessi, e ha deciso di finire tutto. Peccato, perché i Rem è un gruppo ma storico. Ma sì, sicuramente faranno qualcos'altro di importante. Sì, hanno fatto un Greatest Hits che esce a Natale. Quello l'ha fatto la casa discografica. Esatto. Subito con, dopo. Con due inediti forse, però... Questo è un altro par di mani. Ok, secondo disco secondo me è importantissimo, è Dark Side of the Moon. Come mai? Perché è ritornato in classifica in tutto il mondo anche adesso, perché è stato ristampato? Non, c'è, oppure... non è un caso se tu continui a tornare in classifica 40 anni in dopo. In tutto il mondo, c'è poco da fare. È un gran disco e devo dire ha segnato un punto di svolta assolutamente, anche come sonorità. Io ho adorato anche le sonorità sintetiche, anche se io sono qua ormai come il mio progetto Andrea Gianessi è tutto acustico attualmente, ma in realtà... Come ti dicevo prima, io amo contaminare, non escludo anche l'elettronica da un futuro. Per adesso mi andava voglia, avevo voglia di fare solo acustico. Beh, diciamo, Pink solo all'inizio live. Di carriera hanno contaminato la psichedelia praticamente, esatto. Con Syd Barrett hanno molto esatto, loro hanno già lavorato, tra l'altro anche su un abbattimento della forma. Certo. Perché Dark Side of the Moon è anche lì la distruzione della forma canzone, come la conosciamo, pur contenendo al suo interno delle splendide canzoni, quindi... Sì. È un flusso unico, un flusso di coscienza, si potrebbe dire con termini di tanto tempo fa, che bisognerebbe far ritornare in voga. E poi, vabbè, il terzo in realtà l'abbiamo già citato prima. Mi spiace, ma... Beatles Docet. Sì. Ma perché, cioè, Revolver ho capito, ma perché la scelta? Sì, abbiamo capito, Revolver è un disco rivoluzionario, qualcuno dice, più rivoluzionario di Sgt. Pepper stesso. Poi, sì, secondo me sì, è senz'altro quello che ha segnato la vera svolta nel pop. Cioè i Beatles che erano i Beatles, certo. Cioè, non erano il gruppetto sperimentale, erano il gruppetto in cima a tutte le classifiche, e hanno deciso di fare questo splendido album potendoselo permettere, devo dire, però anche gliel'hanno concesso, se vogliamo, cioè, forse erano anche momenti in cui anche la discografia voleva provare a mettersi in gioco. Sì, questo è chiaro. E loro dall'alto delle loro vendite, se vogliamo, hanno potuto fare quello che volevano e hanno prodotto un album che passa da arrangiamenti di archi per Eleanor Rigby a elettronica, a loop, a appunto l'uso della musica indiana, tabla, sitar. Certo. Quindi devo dire, tanto di cappello è uno dei dischi... Dunque si parla degli anni 60, quindi 66, non c'erano, se 66, quindi non c'erano i giochetti che ci sono adesso col computer, no, infatti, e altre cose, sì. Erano tutto fatto da loro, infatti, in una certa maniera. Tra l'altro anche questo è una cosa interessante, che forse si sta un po' perdendo proprio per l'abitudine a essere sempre programmati. Esatto. Cioè la cosa interessante di questo momento, di quel momento storico, era che ci si inventava anche le tecnologie per fare le cose. Quindi quelli che poi sono diventati degli effetti che la gente oggi si compra dentro una scatolina, all'epoca li inventavano magari mandando in rovescio un registratore, oppure per errore, perché non so, rimaneva una puntina di un giradischi infilata dentro. Adesso sto inventando comunque un po' l'abuso e lo stupro delle tecnologie, diciamo. Poi è bello che nei primi dischi di Beatles si sentiva la batteria da una parte e gli altri strumenti dall'altra. Era una cosa meravigliosa all'epoca, rivoluzionaria. Bene, abbiamo finito la parte tua. La mia, ora cedo il passo a Francesco. Io vorrei prima dire che non uno ma due album ti ha ciullato, ti ha preso. È per quello che ho fatto per primo, l'avevo detto. No, quindi allora io cambierò totalmente direzione, perché ovviamente io anche, cioè, vengo anche da un passato oscuro. Passato oscuro. No, nel senso, vorrei in realtà partire molto più indietro. Io un album che mi porterei dietro è il live alla Carnegie Hall di Benny Goodman nel 36. Molto indietro, molto indietro. Siamo persone moderne. Sì, questo sicuramente ve lo porterei. E, perché comunque, cioè, vorrei un po'... Però in vinile. Sì, beh, certo, all'epoca c'era solo il vinile. Infatti questo sarebbe... E poi è difficile sull'isola deserta effettivamente poi accendere tutto questo. Questo è un altro par di maniche. Però poi mi piacerebbe, ovviamente, a questo punto risalgo un attimino la china e sono una grande passione anche per il jazz, quindi... Mi porterei Song for My Father di Horace Silver. E per, arrivando vicino a noi, non so, io ho una passione per questo gruppo che effettivamente mi ha un po', diciamo, preso molto, e si chiamano gli Stateless. E ecco, direi non è famosissimo, ma è interessante. Infatti, mi porterei dietro il primo album che hanno fatto. Può andare. Benissimo. Adesso promosso. Non vuoi rispondere? No, niente. No. Si trincera dietro un diplomatico silenzio. Mi piace sentire voi. Ecco, perfetto. Ok. Abbiamo capito. Lui si porterebbe i suoi strumenti, certo, sull'isola deserta, e farebbe da solo il disco. Senti. Tra l'altro, sul discorso del disco sull'isola deserta, mi è venuto in mente, così a connessione random, una cosa che ho letto di recente: che hanno mandato nello spazio un giradischi con una puntina in cui c'erano tra l'altro incisi dei pezzi. La NASA, per eventuali intelligenze aliene, ha mandato un giradischi con un disco d'oro, tra l'altro. E questa mi è sembrata una cosa geniale, veramente dadaista. Un giradischi nello spazio. Giradischi nello spazio, come se gli allievi sapessero. Grammofono. Benissimo, 23.08, abbiamo sentito i dischi vostri preferiti, cioè i vostri amori musicali. Adesso suoniamo musicalmente parlando, quindi assolutamente in diretta. Che cosa avete scelto? Suoniamo un pezzo che si chiama Effetti Collaterali. Che è un testo molto, molto interessante. È un testo che è stato scritto tantissimi anni fa, 10 anni fa, ed era dedicato a Bush. Certo, Bush sono figlio. Le prime parole sue, mi pare. Sì, esatto, in realtà appunto sono le parole, quelle del discorso che lui ha fatto il giorno delle due torri, dell'attacco alle due torri. E sono una cosa divertentissima, perché adesso le cito così in maniera piuttosto libera. Ma lui dice fondamentalmente che oggi abbiamo visto il nemico dell'umanità, cosa può fare. E poi continua dicendo: abbiamo risposto con il meglio dell'America, e si è visto che il meglio dell'America in questi anni è stata la guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan, e poi tutta un'altra serie di situazioni che sicuramente forse non sono il meglio dell'umanità. Comunque questa è una polemica mia. Effetti collaterali. Ok. Sostanze con effetti collaterali, sovrappopolati quartieri metropolitani, poveri di angeli e di avvenire, poveri di angeli e di avvenire, poveri di angeli e di avvenire. Anomali stati terroristici guidati da fuochi a we atomica, la fascia ionica, la chiave mistica del cesso pubblico. Ce l'ha il governo coi suoi schiavi, ce l'ha il governo coi suoi schiavi. Resiste ai contagi, chi gestisce i suffragi e i maiali nervosi aspettano il turno al macello. La bomba atomica, la fascia ionica, la chiave mistica del cesso pubblico. Ce l'ha il governo coi suoi schiavi, mi stupisco resistere ancora. Ce l'ha il governo coi suoi schiavi, mi stupisco resistere ancora. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Una volta si chiamavano i singoli, questo poteva essere un singolo potenziale, Andrea. Questo in effetti è stato scelto tra i singoli, nel senso che abbiamo fatto un videoclip, abbiamo girato un videoclip con l'aiuto di due amici registi e videomaker, Davide Ricchiuti e Andrea Alvisi, che mi hanno aiutato, hanno fatto un videoclip spettacolare che è visibile su YouTube, certo, in generale. Quindi questo in generale è in effetti stato scelto come singolo, sì, che hai l'occhio e l'orecchio. Sì, è decisamente molto accattivante, nel senso positivo del termine, faceva muovere la gente, faceva sobbalzare la gente, sicuramente quando fatto dal vivo creerà decisamente entusiasmo. Sì, beh, sicuramente questi sono i pezzi più mossi che chiaramente che avete muovono le, nel repertorio, muovono le folle davanti, certo, al palco. A proposito di abbiamo citato il discorso, citiamo anche il discorso del sito, citiamo il discorso dell'etichetta. L'etichetta è praticamente un progetto vostro, anche l'etichetta. Insomma. Sì, allora l'etichetta, come in realtà devo dire la maggior parte delle etichette indipendenti attuale, è un collettivo di musicisti. Noi abbiamo fondato da poco, in realtà a gennaio. Avete e domani la riunione? Abbiamo domani la riunione all'alba. All'alba. E saremo, e saremo lucidissimi. Si chiama Reincanto Dischi ed è nata come un'associazione che appunto un'associazione culturale, che non ha chiaramente nessuno scopo di lucro, perché la musica non ha mai scopo di lucro. E il nome stesso dell'etichetta, Reincanto, denota, diciamo, quello che è il nostro proposito. Reincanto, per definizione, è il contrario di disincanto. Ed è quello che cerchiamo anche di fare con la musica e con le nostre attività. Noi abbiamo creato questa realtà anche per fare degli eventi, per creare della coesione musicale tra i progetti. Ricordo appunto, oltre Andrea Gianessi, c'è Frank Spara, c'è il trio Radio Marelli, ci sono altri musicisti che verranno prodotti. E ci piace, diciamo, l'idea di collaborare, per cui abbiamo creato anche tutta una serie di spettacoli che abbiamo chiamato come nome collettivo Notte del Reincanto, un nome abbastanza evocativo, che portiamo nei teatri e, appunto, che sono fondamentalmente uno spettacolo teatrale musicale unico che unisce i tre progetti per adesso più attivi, che poi più avanti potrà unire anche gli altri, chiaramente, in uno spettacolo che si propone anche di, in certo modo, potremmo dire, senza una parola che nel mondo indipendente è quasi una bestemmia, si propone anche di divertire, una cosa quasi indecente. Ma è stato difficile, per esempio, faccio questa domanda, è stato difficile trovare le date, continuare a fare le date di musica vostra originale? È molto difficile. Molto difficile. Io anche in questi anni di attività di questo progetto in particolare, cioè dal 2008-9, che 2008 che giriamo live con questo progetto, e vedo che c'è stato un peggioramento in realtà negli anni. C'è stato un restringimento degli spazi. Sì, anche dall'anno scorso con quest'anno devo dire che stiamo soffrendo una certa contrazione. Chiaramente girare con un progetto di musica proprio, di musica originale, di musica ai più ancora sconosciuta, certo, chiaramente è molto difficile, perché devi convincere innanzitutto i gestori dei locali, i promoter, quindi è tutto un lavoro che va fatto, e va fatto appunto con la promozione e anche questo, per esempio, con le comparsate in radio, che con i live in radio, certo, che rendono giustizia. E per niente il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo, infatti vi ringraziamo, ha assolutamente voluto qua, c'è un motivo. E quindi sì, noi cerchiamo di proporlo il più possibile, anche perché al giorno d'oggi comunque in generale, poi a maggior ragione per un progetto come questo, il live è fondamentale per entrare in contatto diretto con le persone, perché in un momento paradossalmente di virtualizzazione, di social network, il reale contatto è insostituibile. Certo, è assolutamente fondamentale. Poi tu giustamente hai detto all'inizio di trasmissione, nasce da un discorso di suonare questo progetto, assolutamente, sì, di suonare. Era proprio un nostro proposito, quasi limitante. Devo dire che nel disco ci siamo, una delle limitazioni che ci siamo poste è di stare comunque il più fedeli possibili a quello che poteva essere un arrangiamento che noi avevamo portato live. Quindi, come fate a essere più fedeli possibili a un arrangiamento live? Il disco l'avete inciso dal vivo praticamente, o quasi? Ma no, abbiamo registrato tutto a tracce separate, sì, però... Però comunque abbiamo cercato di non esagerare con appunto i tecnicismi da studio di registrazione, per intenderci, non che io voglia demonizzarli, io tra l'altro appunto lavorando anche come sound designer, come dicevi prima, sono abbastanza, diciamo, dentro queste, certo, tecnologie. Però era un limite che ci siamo posti di cercare di rendere il più possibile, chiaramente pur nelle diversità, perché dal vivo per esempio è un'energia che sul disco non potrai mai ottenere se non in un disco live. Certo, chiaro. E quindi pur non volendo rinunciare alle ricchezze degli arrangiamenti sul disco, abbiamo cercato di mantenere una formazione per esempio contenuta di musicisti, cioè sul disco ci sono i musicisti che poi suonano anche dal vivo, tranne qualche rara eccezione. Ti possiamo ricitare quelli dal disco? Ti ricordi tutti? Sì, è un po' difficile come i brani, perché siamo metà di mille, no, in realtà è molto facile, c'è Francesco Giorgi Albinino che è anche qua, c'è Antonello Bitella al flauto, c'è Domenico Candellori alle percussioni, tamburi e cornice vari, un po' una Yub di San Benedetto del Tronto. Perfetto. Tra Pakistan e San Benedetto. Tra l'altro siamo tutti anche amici, vorrei sottolineare. Certo, è fondamentale. Poi c'è Francesco Gherardi che è con me fin dagli albori del progetto, quando eravamo solo un trio con violino e tabla. Francesco Gherardi è un tablista, ma è anche un musicista d'eccezione che suona praticamente tutto, suona il pianoforte, è diplomato al conservatorio, credo, in pianoforte, sì, suona le percussioni classiche, il vibrafono, la batteria, il basso, la chitarra, un po' tutto. Un po' di tutto. Anche le percussioni africane, tra l'altro. Perfetto. Benissimo. E poi c'è il violoncello Maria Paola Balducci, che ha suonato solo con noi finora sul disco, non ha mai suonato dal vivo con noi. Come mai il violoncello, Andrea? Che è uno strumento meraviglioso, che molto si addice a certe sonorità anche americane di certi gruppi come i Mazzi Star. Ma il violoncello io lo adoro come strumento, fondamentalmente parte da questo, è una questione di gusti personali. Poi un po' decadente, qualcuno dice. Dici? No, io lo trovo molto, molto energetico in realtà. Sì, ecco, vedi. Perché riesce ad avere, diciamo, sia il flusso continuo, il suono continuo che hanno gli archi in generale, certo, sia il suono aggressivo con lo strappato, con le archettate, diciamo, quelle cattive. Poi riesce a fare degli effetti incredibili, per esempio con gli armonici. E a noi serviva tra l'altro uno strumento che coprisse la fascia bassa. Ho capito. Però che fosse altrettanto versatile, perché per esempio il contrabbasso ovviamente copre la fascia bassa, sì, però è un pochino più impacciato del, sì, violoncello. E quindi il violoncello ci è sembrato la scelta migliore. Possiamo dirlo che può sostituire, non si può fare, però può sostituire anche la batterina in alcuni momenti. In fase, sì, ritmica, percuotendolo con un martello. Esattamente. No, in fase ritmica volevo dire. Sì, assolutamente. Cioè, per esempio, un violoncellista molto bravo, che secondo me, insomma, merita tantissimo, di un gruppo che, ecco, forse meriterebbe di essere citato, è stato un po' dimenticato ultimamente, sono i Quinto Rigo. Esatto. E sono un gruppo fantastico che mi hanno lasciato veramente senza parole quando sono venuti fuori a Sanremo nel 99. Sì. Cos'era? Che era c'era il cantante famoso. Direzione artistica di Mauro Pagani. Certo, sempre lui. E devo dire il violoncellista che suona con loro riesce a fare dei lavori anche ritmici, anche quasi aggressivi, sì, rock, direi, rockettari, e sì, quindi è un esempio che io farei studiare al conservatorio i violoncellisti di oggi. Quindi il violoncello in questa funzione praticamente. Sì, diciamo che in una fascia di arrangiamento copriva le frequenze basse e dava un certo che di ritmica, anche di aggressività di suono, che può servire comunque. Quindi se dovessimo paragonarlo a una formazione standard sarebbe stato un po' il basso, diciamo. Che di solito qualche volta sostituisce la batteria. Esatto, sì, sì, c'è un bassista molto, molto percussivo, bravo, molto bravo. Benissimo, abbiamo esplorato tutti i musicisti di questo disco, musicisti molto interessanti, perché le sonorità di questo disco sono tutte particolari, no? sono uniformi. Sì, abbiamo cercato di esplorare il più possibile, certo. Chiaramente io sono convinto in realtà, e mi sono quasi stupito, e forse anche Francesco qui vicino sarà d'accordo, come vedi lui sì, annuisce molto sempre. D'accordo, sì, esatto. È l'uomo che va d'accordo. Tu sei d'accordo, Ayub? Anche lui è Ayub. Anche lui è d'accordo. Non posso non essere d'accordo. Comunque la cosa che mi ha stupito, a disco finito, quindi ho chiuso i lavori e ho lasciato un mese senza ascoltarlo proprio perché non ne potevo più di ascoltare. Perfetto. E mi ha stupito in realtà che nella diversità e nella sperimentazione che abbiamo cercato di portare avanti totale, si è creato comunque un suono che racchiudeva tutti i brani. E questo forse proprio perché abbiamo usato gli stessi musicisti su tutti i brani, la stessa idea su tutti i brani, quindi anche facendo cose completamente diverse, con strumenti completamente diversi, ci siamo poi alla fine stupiti di come fosse tutto collegato. E questo è stato veramente una bella scoperta per noi. Poi non dovrei dirlo io chiaramente, però lo faccio dire a Francesco. No, l'ho già detto io, per cui ok, sono 23:22. Adesso mi pare che ci sia un altro brano da disco, mi pare. C'è l'ultima traccia. Che numero è, Michele? È il brano 11, che brano 11, è anche l'ultimo del disco. Che è molto bello, tra parentesi. Come mai questo brano un po' particolare? Questo viene dall'esperienza del Neil Project. Ah, vedi. Questo è un brano che era incluso nell'album che citavi prima, sì, che è stato pubblicato solo in Inghilterra. Certo. E il brano è The River. Esatto. È un brano proprio che esplora la canzone inglese, la ballad inglese. La ballad inglese, esatto. Proprio nel senso folk. Sì. Era stato un mio esperimento nel voler, diciamo, comporre un pezzo, come dire, in stile britannico. E poi nella versione che ne abbiamo fatta noi in particolare in questo disco, sulla Via della Seta, in realtà è stato un ulteriore passo avanti, perché è stata la congiunzione tra appunto l'Oriente e l'Occidente, cioè la ballad inglese interpretata in chiave come dire multiculturale, sì, e che finisce con un raga indiano e con una praticamente un solo di tabla in sostanza, e quindi un pezzo, direi, musicalmente io penso sia piuttosto interessante. Poi da un punto di vista concettuale è un pezzo di chiusura per eccellenza, perché The River è la metafora, la classica metafora del fiume e della vita, ed è un brano che parla della morte, ma della morte intesa in senso, se vogliamo, come un limite da valicare, e quindi si propone modestamente in qualche maniera di valicare quel limite con la musica. Ok. Tambah Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E questa finale, questa ballad, ballad inglese, folk, il folk è molto bello quando è ispirato. Dopo chiaramente alla fine c'erano i tabla, quindi si passava alla musica presunto etnica, tra virgolette, però sì, direi l'inizio del folk, il folk è una cosa meravigliosa secondo me, dà un certo fascino, e per quello te lo chiedono un sacco di volte dal film, perché è cattivante, ma nel senso positivo del termine, questo accordo iniziale, questo arpeggio con la chitarra, dà un certo fascino, un certo umore. Sì, questo brano è sicuramente uno di quelli che dal vivo, appunto, sì, come sì, dicevamo, è più richiesto, direi un best seller, no, best listed, perché ce lo chiedono sempre, con nostra grande sorpresa, perché normalmente dal vivo uno si aspetta che i brani più d'impatto, i brani più ritmici attirino di più nella richiesta dei certo. bis. Invece abbiamo testato in questi anni che un brano anche soft, anche, come dire, raffinato, giocato su piccole come dire, variazioni, piccole sonorità, possa colpire nel profondo, perché tramite la melodia, tramite l'armonia e la contaminazione che portiamo avanti, insomma. C'è un musicista inglese, forse tu lo conosci, si chiama Paul Roland. Non lo conosco. Che estremizzava, cioè partiva sempre da una versione acustica semplice del discorso folk, e poi estremizzava le cose, utilizzava oltre le tabla, utilizzava tanti altri strumenti, estremizzava le cose. E ora si può definire il tuo. Sì, può ricordare, almeno all'inizio, secondo me, un po' di Paul Roland. Chiaramente poi Paul Roland faceva le cose molto più oscure. Me lo andrò a sentire allora. Prova a sentire Paul Roland, che è un musicista molto valido, ha fatto tanti dischi, tante per etichette indipendenti, piccole etichette. Anche lui mirava alle piccole, alle indie, cosiddette indie. Sì, chiaramente. È l'unica cosa da fare in questi ultimi tempi. In questo periodo sì, perché l'alternativa per le major è fondamentalmente andare ai talent show. Esattamente, andare ai talent show. Che qualcuno conosce bene. Ma conosci bene i talent show, se ne vergogna. Per via traverse, ok, vai. Che comunque sono la realtà della discografia canonica di ora, sono quelli. La scelta dell'indipendenza è una scelta, come dire, un po' obbligata. Indipendenza anche. Proprio tua, questa. Dobbiamo tenere conto dell'etichetta vostra. Siete sì, voi, ma come progetto. Ti dicevo, in realtà è quasi la maggior parte delle etichette. Poi magari. Magari vengono fondate da un collettivo di musicisti e poi prendono il volo col tempo, magari, cioè nel senso, dopo 10 anni sì. cominciano a essere gestite da quei musicisti originari, però a produrre altri che non sono più nella gestione. Però all'inizio devo dire che potrei quasi dire il 90% delle etichette indipendenti sono gestite dai musicisti stessi che si, come dire, prodigano nella produzione e sì, nella promozione. C'è più libertà in ogni caso di gestire le cose, anche scelta, se economicamente è un peso non da poco. È un peso, ma è anche, come dici te, ti dà una certa libertà. È chiaro che ti dà molti limiti, perché comunque, prima di tutto, una cosa che forse non traspare spesso sì. è che il musicista al giorno d'oggi è obbligato a fare un po' troppi lavori per poter vivere. No, ma non solo per poter vivere, proprio come progetto musicale. Ah, ho capito, cioè, bisogna essere produttori, distributori, un po' di tutto, sì. ufficio stampa, promoter, road manager. E alla fine andare a suonare. E alla fine andare a suonare, il tempo freschi a suonare. Come delle rose. Dimmi. Io penso che in realtà mi piacerebbe vedere recuperata la professionalità, la divisione di ruoli in cui un produttore fa il produttore e un musicista fa il musicista. Attualmente la situazione è quella in cui i musicisti fanno più o meno tutto. È così. Con una certa fatica, però, e con una limitatezza anche proprio di capacità, perché comunque un bravo discografico, per esempio, ha delle capacità sue sviluppate col tempo, che non è detto che un artista abbia, anche solo manageriali, di gestione del progetto. Cioè ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere. Esatto, io penso che sarebbe bellissimo, cioè sarei felicissimo di collaborare con qualcuno che sappia fare il suo mestiere e me lo tolga dalle spalle a me. Certo, chiaro. Poi non è sempre così. No, è un po' difficile. Non abbiamo, mi pare, citato se avete delle date in corso. Allora, abbiamo appena fatto la Notte del Rincanto a Firenze. Bene. Quindi nel Teatro del Sale a Firenze è stata una bella esperienza. Francesco è toscano di Firenze. Lui sì, lui è di lì. Di lì praticamente. E in realtà adesso nell'immediato, cioè in novembre, siamo in pausa perché io ricomincerò a lavorare a dei brani nuovi. Abbiamo deciso di prenderci un attimo di pausa. Poi ci saranno delle nuove date a dicembre, che però adesso vanno ancora confermate. Saremo a Parma il 7 di dicembre, Poi c'era probabilmente un'altra notte del Rincanto a Modena. Bene. E un'altra a Bologna, ma queste sono date dei primi di dicembre. Comunque tutte le date possono essere viste poi sul sito. Citiamo un'altra volta. Allora, il mio sito personale è andreagianessi.it, www.andreagianessi.it, e poi c'è anche il sito dell'etichetta, che è reincanto.com. Benissimo. Ti vorrei chiedere un'altra cosa, Andrea. Dal punto di vista temporale, i pezzi di questo disco, La Via della Seta, qual è il più vecchio? Il più vecchio è quello chiaramente per ultimo che abbiamo citato, perché apparteneva alla tua produzione precedente, o sono dei pezzi nuovi, tecnicamente nuovi? No, in realtà nuovi. Questo si potrebbe dire che alcuni dei brani sono vecchissimi, per esempio appunto citavo prima Effetti Collaterali, sì, del 2001, certo, quindi 10 anni fa. Sogni l'ho scritta addirittura quando ero al liceo. Quindi sono tutte cose che avevi già nel cassetto pronto. Alcune sì, altre invece sono state scritte negli ultimi anni, alcune proprio recentissime. Per esempio Precaria Primavera è stata una cosa scritta da poco, Prima delle Sabbie anche questa avrà 2 o 3 anni, La Prima Onda anche una molto recente. E come si fa a riprendere un pezzo scritto là, messo là, e poi dovendolo riprendere dopo un po' di tempo? Ma ti dirò, è stata un'esperienza gratificante. Dimmi Francesco. No, vorrei rispondere perché io ho visto come ha fatto, perché ci ha preso, ci ha portato a casa sua. Questi brani li ho registrati così, l'avete sentiti questi? Bisogna fare un'altra cosa. Sì, perché la cosa divertente è che li avevo già registrati, però essendo stati fatti in un periodo diverso, ovviamente io avevo un'idea più rock della cosa e più strutturata, come ti dicevo prima, quindi erano basso e batteria, certo, synth, chitarra elettrica, distorta. Eliminare la batteria non era facile. Io appunto, come diceva Francesco, li ho presi, li ho portati a casa mia, gli ho fatto sentire quel demo che avevo registrato, gli ho detto ecco, scordatevelo totalmente. E lavoriamo su quello che, cioè appunto quello che ti dicevo all'inizio, destrutturiamo questi brani e ricostruiamo da zero. Ed è stata una cosa anche divertente da fare, credo, sì, anche sì, per sì, loro. No, io mi sono divertito molto. Lui gli piace ristrutturare tutto. Quindi un'ultima cosa volevo chiederti. Sì, avete l'idea di ristrutturare, è stata, tu hai preso l'idea, poi gli altri hanno seguito la tua idea, ti hanno dato una mano su questa idea. Assolutamente sì, questo progetto io diciamo metto l'idea di base, le canzoni, ma penso che possa essere tranquillamente, da un punto di vista del risultato finale, totale, un progetto collettivo. Certo. Perché ogni musicista che è entrato ha portato le sue idee, ha portato le sue esperienze, e tutti i musicisti che entrano portano man mano ulteriori esperienze. Noi dal vivo già cambiamo, per esempio suonare un brano per esempio solo con Ayub non è come suonarlo con un altro percussionista della formazione, con Francesco Ghirardi o con Domenico, perché ognuno poi suona secondo la sua sensibilità. E i brani sono una materia cangiante, in realtà, in continua evoluzione, anche col tempo, insomma, sono cambiati tanto, anche dall'ideazione del disco in poi. Perfetto. Cosa suoniamo adesso? 23:36, totalmente in diretta. Profeti Stanchi, direi, un brano in cui inviterò Ayub qui alla mia destra a cantarci nella sua lingua originaria, anche nella parte centrale ci farà un cameo suo. Bene. Come una brace punteggia di luce ogni mia fantasia, e tu saluta il mare che si gonfia come questi muri ricolmi di suoni che non sappiamo recitare e non sappiamo decifrare. Ruolo false polari, profeti stanchi e santi ipocriti. Nel nome di tutto e di nessuno ci vomitiamo addosso, ed è tutta fasulla e fragile, raccolte chissà dove tra nuvole sporche, tra nuvole sporche, tra nuvole sporche di gas e sabbie rosse. Yeah. by the embers of light, every fantasy of mine. And you welcome the swollen sea, and the swans overflowing with sound. That you cannot decode, cause you cannot play the part of false poets, tired prophets, hypocritical sound. In the name of everything and nothing, we vomit all our easy identities. And she died, come un abbraccio punteggio. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ayub Mohamed, Francesco Giorgi e Andrea Giannessi, ottimi ragazzi, ottimi, ottimi. Questo per esempio è un classico esempio di quello che ti dicevo prima, questo brano sul disco non c'è. Ah, perfetto. Ovvero c'è, ma non è scritto, non è fatto così. Addirittura Ayub in questo, nel disco non c'era proprio. Certo. E qui canta ovviamente questa parte centrale che abbiamo inserito proprio per il live. Quindi è ascoltabile solo ed esclusivamente dal vivo, insomma, questa versione. C'è una recensione di Sentire e Ascoltare, te la leggo perché tu te la ricordi sicuramente. Però è molto interessante. Dice: onirismo che sa di Casbah circumnaviga la canzone d'autore senza farsi troppo irretire dalla seriosa ortodossia che il genere impone. Bello, senza farsi troppo irretire dal che il genere impone. Cioè, come abbiamo già detto un sacco di volte, ripetuto questa serata, la canzone dell'autore va oltre alle cose. Esatto. Va oltre, soprattutto va oltre il purismo. Esattamente. Quindi mettersi... Ecco, io mi sono messo tanti limiti in questo disco, ma non quelli. Ah, ok. Mi sono messo dei limiti tecnici miei, delle mie idee, che erano fondamentalmente le strutture che noi abbiamo voluto fare. Però i limiti legati al purismo, alla seriosità che appunto di cui appunto parlava, non l'ho voluta far comparire in questi brani. Poi un altro ha scritto che tu, e tu l'hai ripetuto anche in un'altra intervista, l'abbiamo già ripetuto prima, però è giusto ripetere un'altra volta, ricerchi continuamente. Esatto, sì, questo è una delle cose di cui modestamente cerco di portare avanti, e forse sono contento anche dei risultati che sto facendo, perché mi sta portando prima di tutto a conoscere una caterva di musicisti, certo, bravissimi, che voglio dire è uno degli elementi umani essenziali. Cioè questo progetto ha una componente umana fortissima di ricerca personale, poi una ricerca musicale che comunque viene portata avanti, e devo dire ci staranno delle soddisfazioni, insomma. Sì. Francesco cosa dici? Francesco annuisce. Annuisce. Sì, annuisco perché ovviamente non voglio sempre interrompere, però effettivamente... Sì, ma giusto, lo devi interrompere. No, perché sì, senso positivo. Sì, sì, sì. No. Perché Ayub non vuole parlare, però annuisce, cioè nel senso confermi. Mi piace tantissimo suonare con Andrea, quando ho anche conosciuto lui, che facevo le diverse cose, le mie. Poi è Domenico, che suonava prima già con Andrea, che io non conoscevo Andrea, certo, solo sentito di nome. Di Ma come hai conosciuto Andrea praticamente? Che un mio amico suonava già con Andrea, prima. Ho capito. Poi parlavano, sempre l'ho sentito il loro gruppo qua di là, guarda Via della Seta. Io dicevo, allora vorrei andare a sentire. Poi quando c'era giunto tablista avevo ancora più voglia di andare, e piano piano mi ha presentato mio amico e mi ha detto, guarda, ti presento Andrea. Poi abbiamo parlato un po', lui mi ha detto, guarda, se ti piace ti faccio sentire due o tre cose, se ti interessa vieni, se no non è problema. Invece ti sei interessato a come? Io quando l'ho sentito veramente mi è piaciuto, perché come Andrea all'inizio parlava di ritmi, sì, di colori, nostra terra noi siamo molto abituati a fare ritmi dispari, di tabla, sitar, queste cose, e sono, non ci sono gruppi qua in Italia, sono pochissimi gruppi, quello che ho sentito io è fanno quarto quarti, ho capito, e basta, non ne hanno niente d'altro da fare. E con questo io l'ho sentito diverse cose, ritmi, colori. Ti sono piaciute, ti sei inserito immediatamente. Per me italiano. No, ma si capisce benissimo. Con questo gruppo l'ho trovato così come mondo unito. Ho capito. Diciamo che tutte le cose sono diverse, come la mia terra, sono Pakistan, Italia, qua di là, è unita, che ci sono tantissimi diversi belli colori. Bene, bene, quindi la porta è stata aperta, poi sei entrato e hai fatto un ottimo... Cioè, ha fatto un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro, esatto. Ci siamo trovati insieme una volta a casa sua e abbiamo fatto tutti i pezzi in due, appunto così, con chitarra, buzuki e le sue percussioni, e ci siamo trovati benissimo, quindi poi dopo l'abbiamo... Che subito siamo trovati, non è che... Dimmi. Lui mi ha detto, guarda, se vuoi facciamo una prova piccola, e ho detto, sì, mi piacerebbe. E io ho invitato a casa mia, non è... che è diventato un problema, abbiamo fatto così subito, immediatamente, perché siamo, vi siete trovati trovati molto bene, certo immediatamente, come anche la scintilla la scintilla è stata istantanea, sì, un colpo di fulmine, esatto, un colpo di fulmine. Ok, 23:45 e 56, abbiamo circa un quarto d'ora, abbiamo ancora tempo per far sentire qualcosa. E una cosa voglio chiederti, tu hai detto che stai già lavorando a dei pezzi nuovi. Sì. Che andamento avranno questi pezzi nuovi? Saranno una grande sorpresa, perché appunto, siccome non mi piace rinchiudermi nelle gabbie da solo, in realtà stiamo già lavorando a un brano che avrà un andamento swing, lo possiamo dire. Bello, bello. E ora Benny Goodman, si capisce. Sì, e tra l'altro con l'ukulele. Ah, con l'ukulele. Ukulele, violino e... Non c'è Doni per Jam qua, no? No, anche se apprezzo molto l'ultimo disco di Eddie Vedder, è secondo me fantastico. Certo. Io ovviamente, poi tu prima mi hai detto tre dischi da portare sull'isola. Io dovrei bisogno di un camion, di un cargo, qualcosa. Lo so. Però i per Jam hanno questa caratteristica, almeno secondo me, ad ogni disco cambiano sempre. Esatto, ed Eddie Vedder, devo dire, con gli ultimi due, cioè che poi penso siano i suoi solisti, sì, i suoi dischi solisti, sì, quello dal film e quello sia Into the Wild, sì, che Ukulele Songs, mi ha veramente affascinato, e penso che è andato verso una direzione che esprime benissimo l'idea di limitarsi per aprirsi. Cioè lui si è limitato, ha deciso, io faccio le canzoni con l'ukulele. Certo. Questo è un esempio di limite positivo. Cioè lui non è che dice, da qua in avanti dovrò sempre suonare, no, solo l'ukulele. Ha detto, io per questo disco qua faccio questo progetto, faccio delle canzoni e le voglio arrangiare in questa maniera, e mi limito in questo modo. E sono venute fuori delle cose intense. Ecco, direi che il termine proprio giusto è intenso. Certo, è stato anche positivo, perché ha fatto riscoprire a tanta gente questo strumento, che, esatto, è uno strumento molto interessante. E devo dire che comunque noi ci fregiamo di un collaboratore che l'ukulele lo suona da tempo in memore. Okay. Da almeno 10 anni. Sì, quando non lo conosceva nessuno. Esatto. Lui andava a prenderselo proprio negli Stati Uniti apposta. Sì. Te lo cito perché tra l'altro l'ho sentito oggi al telefono, anche, che ci ha dato questa notizia che lascerà l'Italia. Infatti, è una la fuga dei cervelli. Ne va. Lui è appunto un chitarrista blues, fingerstyle, finger picking, suona il banjo, suona l'ukulele, ha un gruppo blues che si chiama Lazy Step con un altro nostro amico, loro sono Fabrizio Bezzini e Flavio Cipriano, e Fabrizio e probabilmente anche Flavio collaboreranno sul prossimo disco in alcuni momenti. Sì, e sicuramente appunto inseriremo l'ukulele, inseriremo il banjo. Poi vedremo, insomma, le possibilità sono aperte. Mi piacerebbe un vibrafono, forse riprenderemo la batteria su qualche cosa. Un cantiere aperto, sono aperto. Sì, un cantiere assolutamente aperto. Aperto anche a suggestioni. Certo, è importante. Ok, abbiamo tempo, sì, per sentire qualche altro pezzo dal vivo. Che cosa, Andrea? Allora, io quasi, giusto per sentire la differenza, farei prima delle sabbie. Sì. Perché l'abbiamo sentita all'inizio della trasmissione. Certo, che è un pezzo molto interessante. Un pezzo molto complesso nell'arrangiamento del disco. Qui ovviamente è una versione semplificata, ma che secondo me merita comunque. Ok. Ti stiamo preparando, qualche secondo. Dobbiamo fare tutti gli armamentari. what is burning. L'Italia brucia di incenso e solitudine, di lunghe lotte di diozia, e si aspetta l'odore della pioggia che sale dalla terra antico nel vento. The summer we, the summer we, pesante di sabbie lontane. The summer we, the summer we, I still can hear the scream, I still can hear the scream, I still can hear the scream, I still can hear the scream. È di sabbia sottile, le parole scritte per caso, gettate sul fondo. Sulla terra impulita a risuonare i passi dei viaggiatori, i passi dei viaggiatori. Polvere e sabbia a celare le mani, come fosse questo importante. The summer wind, the summer wind, pesante di sabbia lontane. The summer wind, the summer wind, I still can hear the scream, I still can hear the scream, I still can hear the scream, I still can hear the scream. Sì, citiamo un momento un'altra recensione, ne ho citate tante, ma è giusto che siano citate perché sei stato giustamente con molto piacere. Cioè, Italia Oggi, Antonio Ranali scrive che c'è una musica che parte prima in molto calma e poi si sviluppa. Effettivamente, questo è un ritornello vero e proprio, molto sì, accattivante, ma poi l'avete sviluppato, l'avete allungato all'inverosimile, per poi ridurlo un'altra volta il ritornello, esatto, e poi allungarlo un'altra volta. E poi sì, dal vivo la cosa divertente è che, a parte, cresce anche proprio l'intensità con sì, cui lo si suona, perché parte molto tranquillo, come avete notato, come hai notato anche tu, e poi man mano monta, e questo è l'idea, sì, chiaramente è bello quello. E il finale di solito è quasi al doppio della velocità dell'inizio. Questa è una cosa divertente di suonare dal vivo. Poi ho visto Ayub che si è dato da fare nel senso positivo del termine. Che strumento è quello là? Un Dolak. Come si chiama? Un Dolak. Fammi sentire un secondo. Il suono? Ecco, che si è sentito benissimo. Sviluppando sempre più velocemente il discorso, poi tu davi un'accelerazione totale e poi il Francesco si sbizzarriva col violino nel senso positivo, e poi anche pizzicavi le corde, è una cosa molto positiva. Sì, lui è un violinista, diciamo, anche lui d'eccezione, perché utilizza svariate tecniche, no? Negli anni ho imparato a utilizzare il violino anche con i piedi. Sì, sì. È bello. Perché qui, cioè, noi siamo in radio, chiaramente se fossimo in televisione avreste visto Giorgi che suonava il violino con i piedi e tenendo l'archetto con i denti, giusto? Bello, come faceva Jimi Hendrix con la chitarra. Esatto. Un po' di tempo fa. Sì. Quindi, ok, insomma, ragazzi, abbiamo finito ormai, abbiamo concluso questa bella carrellata. Io vi proporrei questo, magari 5 minuti. Se fate due pezzi live, uno dietro all'altro, attaccati. Prima salutiamo, vi ringrazio per essere venuti qua da Bologna a fare sentire il ripetiamo il titolo del disco, La Via della Seta, la vostra etichetta, che è la vostra praticamente, Reincanto Dischi. Dove si può trovare fisicamente il disco? Allora, fisicamente il disco stiamo in realtà organizzando una distribuzione, quindi nei negozi ancora è difficile trovarlo. Si può trovare contattandoci direttamente sull'etichetta, oppure si trova sui tutti gli store digitali, iTunes vari, così, certo, via. E poi ai concerti, la cosa fondamentale è quella, finora è il nostro canale privilegiato di comunicazione. Benissimo, grazie allora a Andrea Gianessi, a Francesco Giorgi e a Ayub Mohamed, spero di averlo pronunciato bene, è stato molto divertente, molto interessante, musicalmente è un complesso, sì, ma dobbiamo sentire queste novità della musica indipendente, Andrea, c'è poco sembra da fare. Giusto. E noi della radio facciamo il possibile per farlo. Fate il massimo. Grazie a Michele Tosoni in regia, domani ci sarà Agostino con Giulia Daici, che è una cantautrice, sempre dell'Emilia Romagna, mi pare. Ok. Buonanotte a tutti, adesso sentiamo due pezzi live uno dietro l'altro. Io direi Ombre, sicuramente, incominciamo con quello. Ok. Ci sistemiamo un po' tutti i vari strumenti. Sì, tutto dal vivo, assolutamente. Agitate nel lago stasera, come anime dannate, o pensieri maledetti. Una nebbia leggera nasconde rocce lontane, e di qui a guardare la gente intorno ride. Stasera, oh, pensieri maledetti, ombre dannate stasera, oh, pensieri maledetti, occhi inquieti, no, non possono fermare il sole, occhi inquieti, no, non possono fermare il sole, ed è il sole che cade sempre più. We'll be right back. vento le onde su di me, seduto a guardare che cosa non so, forse quelle ombre, forse quelle onde. Stasera pensieri maledetti, dove andate stasera? Oh, pensieri maledetti, occhi inquieti, no, non possono fermare il sole, occhi inquieti, no, non possono fermare il sole che scende sempre più giù. E tu stella notturna, non mi guardare così. E tu follia di sempre, portami via. Infiniti. Taglio il cielo con gli occhi, vedo le ombre che vengono verso di me, ed il sole si nasconde ormai, e la luna non c'è. E la luna non c'è. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tu lo sai che la neve ritornerà e la pioggia su di te. E la gente ancora vivrà mentre cammina da solo. Thank you.